Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani, eccoci ritrovati a Salva Danaio per la seconda giornata consecutiva in diretta dall'Università Bocconi di Milano, dove è in corso il Salone del Risparmio, un appuntamento molto importante appunto dedicato all'industria del risparmio gestito nel nostro paese, al tema della consulenza, al mondo del risparmio. Il tema di questo salone è proprio risparmio, motore dell'economia. Fra i tanti impatti della crisi finanziaria, lo raccontiamo tutti i giorni dai nostri microfoni, c'è anche quello di aver cambiato sotto alcuni aspetti il rapporto fra gli investitori e i professionisti a cui si affidano per la gestione appunto del proprio risparmio. Ci sono dei mercati altamente volatili, ci sono le preoccupazioni per la stabilità del debito di alcuni paesi, c'è la diminuzione dei redditi, tutti i temi, tutti gli argomenti che hanno accentuato gli aspetti di rischio e incertezza che ogni investimento comporta. In questa seconda puntata, in diretta dall'edizione 2013 del Salone del Risparmio di Assogestioni, Salva Danaio vuole approfondire alcune tendenze di cambiamento nel settore del risparmio gestito, aprendo il confronto con gli ospiti in studio e gli ascoltatori da casa in merito alle azioni più importanti da intraprendere per incoraggiare i risparmiatori a ritrovare la fiducia, tema che peraltro è stato anche l'argomento della conferenza di apertura di ieri delle Salone. 800 24 00 24, il tema per i vostri interventi in diretta: in che modo le notizie e le tendenze globali portate dalla crisi hanno cambiato il vostro modo di investire il risparmio? Ci confronteremo questa mattina con tre primari e società appunto del nostro paese. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto anche a Pietro Giuliani, presidente di Azimut, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. E benvenuto ad Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco Bank. Grazie, buongiorno. Ho fatto veramente questa mattina bingo, sono molto contenta perché hanno appena terminato una tavola rotonda i nostri ospiti questa mattina sul risparmio gestito e consulenza, tendenze globali. Sono emerse tante questioni interessanti, tra cui addirittura questa mattina per la prima volta in maniera molto chiara ho sentito addirittura parlare di low cost nel risparmio gestito. Avremo modo appunto di affrontare anche questo tema con i nostri ospiti. Prima di tutto questo però rapidamente anche la giornata di borsa. Ve lo dicevo anche poco fa in diretta dal giornale radio, una seduta un po' più tranquilla rispetto a ieri. Gli indici europei tentano il recupero dopo appunto i cali molto forti che ieri si sono determinati a causa di questo tema che circolava sul mercato, un possibile declassamento in arrivo per la Germania. Oggi Moody's ha confermato il suo giudizio, il mercato appare un po' più sereno, ma vedo già che alcuni indici rispetto alla mattinata hanno rallentato il loro passo. Adesso Francoforte guadagna circa lo 0,3%, Parigi più 0,6%, Milano un po' meglio più 0,82%, due aste. I titoli di Stato in Francia e in Spagna hanno dato un esito molto positivo con rendimenti molto bassi, addirittura per il bonus spagnolo siamo arrivati ai minimi dal settembre 2010. L'euro sul dollaro a 1,3066, la nostra croce delizia, la nostra ossessione da mesi, lo spread è scivolato sotto per fortuna i 300 punti base. Direi che per la borsa la possiamo lasciare subito, andiamo al tema di stamattina, di nuovo sul tema del risparmio e il mondo dei professionisti. Dopo il crack Lehman Brothers, il mondo non è stato più lo stesso, in particolare il mondo della finanza e degli investimenti. Di fronte agli occhi dei risparmiatori è diventato più chiaro, e talvolta fin troppo chiaro, che non esiste un investimento perfetto, privo di qualsiasi tipo di rischio. Non è quindi solo nelle situazioni di difficoltà o di diminuzione del reddito che i risparmiatori hanno iniziato a fare passi indietro. Alla base della diminuzione della raccolta delle società di gestione del risparmio registrata negli scorsi anni ci sono state spesso la preoccupazione, la mancanza di fiducia, l'emotività. Ad alimentarle l'alta volatilità dei mercati, i rialzi dello spread, che tutti hanno iniziato a conoscere e a seguire quotidianamente, con i rischi dei paesi periferici. La prospettiva, fino a pochi anni fa lontana, anni luce, che anche una media o grande economia europea possa arrivare al default. Eppure, negli ultimi mesi, la rotta sembra essersi invertita. Migliorano i volumi della raccolta e migliorano anche le performance. Merito, tra le altre cose, anche di quel rischio sul debito sovrano che ha reso più sostanziosi i rendimenti dei titoli di Stato. Troppo presto, forse, per parlare di una ripresa dell'economia, per sbilanciarsi annunciando un miglioramento di questa tendenza globale. Con più cognizione di causa è invece possibile parlare di un'innovazione nel settore, di una nuova consapevolezza che gradualmente i risparmiatori stanno acquisendo, anche grazie alla ritrovata capacità dei professionisti che li accompagnano di tranquillizzarli e di infondere loro la giusta dose di fiducia, condividendo informazioni complete e realistiche, spiegando perché una mossa può essere tattica e ammortizzare anche gli eventuali rischi senza nasconderli. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666. E allora raccontateci un po' come la pensate su questo argomento. Il tema è un po' anche quello che abbiamo affrontato ieri: come avete vissuto questi anni difficili, come vi siete fatti accompagnare nel percorso della gestione del vostro risparmio. E io ribadisco anche quello che ho detto ieri in apertura, so già che molti ascoltatori mi contesteranno il fatto che c'è sempre meno risparmio da far gestire. Massimo Doris, ieri dicevo al presidente dell'ANAS, Maurizio Bufi, vi siete dovuti anche un po' improvvisare psicologi in questi anni, perché la fase di accompagnamento alla famiglia e al mondo del risparmio, dei risparmiatori, non è stato facile. Oggi la situazione si sta più tranquillizzando? Forse sì, un po' più tranquille le persone sono, però sono ancora fortemente preoccupate. E il lavoro di psicologi, come hai ricordato, non è un lavoro che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, ma in realtà è un lavoro che sempre deve fare il consulente finanziario. È un lavoro importante perché si tende, il risparmiatore tende a ragionare più con la pancia che con la testa, e quindi a spaventarsi nei momenti di crisi, a eccitarsi, a diventare euforico nei momenti invece in cui i mercati vanno molto bene. Ricordiamoci 99-2000, come tutti compravano, soprattutto se erano titoli dell'high tech, int, che avevano il .com o il .it. E lì invece è molto importante che ci sia un professionista al fianco che smorza gli entusiasmi e invece mette un po' più di lucidità nei momenti di, portare un po' di lucidità, di ottimismo nei momenti di sconforto. Perché se guardiamo, sì, abbiamo avuto una crisi molto importante, ma una crisi molto legata all'Europa. Se guardiamo il mondo nel suo complesso, dal punto di vista economico, sta crescendo. E il risparmiatore, come tale, pur essendo italiano, può investire in tutto il mondo. L'economia mondiale sta crescendo, quindi significa che i mercati, pur con la loro non perfetta ovviamente correlazione al mondo economico, dovranno prima o poi aggiustarsi ad andare in quella direzione. Certo. Pietro Giuliani, io questa mattina sono riuscita a seguire non tutta ma un po' della conferenza, appunto, a cui avete partecipato tutti insieme. Ho sentito che in questi ultimi anni, appunto, proprio per accompagnare in questa fase molto delicata i risparmiatori e le famiglie che seguite, avete dovuto fare anche degli switch, si dicono in gergo finanziario, poi spieghiamo magari ai nostri ascoltatori che non hanno confidenza con questi termini in cosa consiste. Comunque avete dovuto fare molti spostamenti delle vostre masse, appunto, da un settore ad un altro, proprio per aiutare i risparmiatori. Che cosa vi hanno chiesto di fare esattamente? Beh, i risparmiatori, come si diceva prima, erano molto preoccupati, direi quasi spaventatissimi da quello che era successo sui mercati finanziari. Diciamo che non è normale considerare i mercati finanziari completamente staccati dall'economia reale, e quindi non è normale pensare che quello che succede sui mercati finanziari è qualcosa di diverso da quello che ci succede tutti i giorni nella creazione o nella distruzione di posti di lavoro, e viceversa. Non è normale pensare che sia indipendente la creazione o la distruzione di posti di lavoro da quello che è il comportamento sui mercati finanziari. Io quello che voglio dire con questa frase è che spesso tutti quanti dicono: io non investirò più in azioni, però tutti quanti poi cercano lo sviluppo e il lavoro per loro e per i loro figli. È difficile che qualcuno investa dove tutti quanti non vogliono investire. Quindi il lavoro che abbiamo cercato di fare è stato quello di ricordare alle persone di non essere troppo emotive e troppo assolutiste, ma che si è trattato di una crisi molto dura e molto importante, di un cambiamento importante, ma con il quale si può convivere continuando a guadagnare soldi da un punto di vista finanziario e a vivere in un mondo in cui c'è ancora aggressione o distruzione di posti di lavoro. I risparmiatori vi hanno chiesto di gestire il risparmio con maggior prudenza e in maniera più conservativa? Assolutamente sì, ed è il motivo per cui abbiamo fatto i cosiddetti switch, cioè passaggio da un prodotto a un altro. Abbiamo creato dei prodotti che facessero sentire più a loro agio i risparmiatori rispetto a quelli classici che fino a prima della crisi andavano benissimo. Per esempio? Per esempio abbiamo fatto dei prodotti a cedola in cui tutti quanti vogliono avere alla fine dell'anno la visibilità e la tangibilità che il loro denaro sta producendo della ricchezza, e quindi poter incassare ogni trimestre, ogni fine d'anno una parte del rendimento prodotto dal prodotto. Certo, e l'ho portata su questo terreno perché non è la prima società che sento ad aver fatto appunto scelte di questo tipo, perché evidentemente appunto la domanda è questa. Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, anche dal vostro punto di vista, che è piuttosto articolato e ampio, come sta cambiando il panorama dei prodotti proposti alla clientela in questa fase? Sicuramente dobbiamo partire da queste considerazioni. Il primo è che... Più che cambiare i prodotti, cambia la consulenza. Sì, sta cambiando il contesto, nel senso che prima di tutto è importante tenere presente che in Italia c'è presente una quantità di risparmio molto molto rilevante, cioè la ricchezza che è in mano alle famiglie italiane di circa 3,5 trilioni di euro, 3.500 miliardi di euro. C'è un tasso di risparmio che, seppure in diminuzione rispetto ai picchi che abbiamo avuto negli anni passati, rimane comunque sostanzioso, quindi si parla tra l'8 e il 9%. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che famiglie italiane sono sempre più caratterizzate ad avere patrimonio e magari poco reddito, perché sappiamo che le prospettive reddituali sono in questo momento modeste. Per cui gli italiani stanno sempre più guardando i propri risparmi come una specie di punto di riferimento e un qualche cosa la cui corretta gestione può diventare un compendio che permette di mantenere inalterati gli stili di vita pur in presenza di un contesto economico difficile. Quindi grande attenzione a come vengono gestiti i risparmi, sicuramente una grande attenzione a quello che è il rapporto rischio-rendimento e sicuramente, proprio per quelle considerazioni, la richiesta di prodotti cosiddetti un pochino a cedola, in grado di garantire un flusso di reddito costante, diventano particolarmente richiesti e sono un po' quello che sta facendo la parte del leone in questo momento. Molto interessante il tema della conservazione del tenore di vita, perché ho sentito che anche l'industria assicurativa si sta portando sullo sviluppo di prodotti di protezione di questo tipo, quindi evidentemente il Massimo Doris, per chiudere con una battuta prima di andare a fare la nostra prima pausa, il bisogno emergente in questo momento sembra questo. Sì, e lo confermo anche nel nostro caso. L'integrazione del proprio reddito tramite una cedola e, seguendo quello che ha detto Giuliani, avere la conferma che l'investimento sta dando i suoi frutti ha portato questi prodotti ad avere grande successo nel mercato. Noi abbiamo sfruttato questo lanciando da poco, alla fine dell'anno scorso, un sistema di investimento chiamato Ogni Mese Medio Annuo, dove investendo in una serie di fondi si ha una cedola mensile e sta ottenendo molto successo questo. Benissimo, ci fermiamo per la nostra prima pausa. 800 24 00 24, mi piacerebbe avere qualche chiarimento in più rispetto all'osservazione di un ascoltatore che dice ci sono mille tipi di formaggio, ma il latte è sempre quello, chissà come relaziona il concetto alimentare a quello del risparmio. Magari adesso ce lo faremo spiegare, i nostri ascoltatori sono sempre molto pittoreschi. Eccoci ritrovati in diretta, Salva Danaio in diretta dal Salone del Risparmio di Milano per la seconda giornata consecutiva questa mattina, per parlare delle tendenze del risparmio italiano. Con noi Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, e Pietro Giuliani, presidente di Azimut. 800 24 00 24, il numero verde se volete condividere con noi le vostre considerazioni informazioni sul tema anche della crisi, come ha orientato diversamente il vostro risparmio rispetto al passato, con tutto il rispetto naturalmente per quelle famiglie che invece in questo momento affrontano temi diversi, problemi diversi, come per esempio anche la mancanza magari di un posto di lavoro all'interno del nucleo familiare, che ha drasticamente modificato non solo le scelte di investimento, direi che qualche volta le ha anche annullate. Dottor Foti, Finecobank, voi vi avvalete per quello che riguarda appunto la distribuzione dei prodotti attraverso la vostra piattaforma sia del canale dei promotori finanziari, oppure la famiglia che vi sceglie, il risparmiatore che vi sceglie può fare anche da sé attraverso appunto la piattaforma di home banking. Che cosa preferiscono le famiglie? Ma bisogna fare un distinguo rispetto a quelli che sono i servizi. Allora, se parliamo dei servizi di tipo transazionale di banca, quindi attività di bonifici, trasferimenti, acquisto di azioni, obbligazioni dirette, così sicuramente il canale preferito è quello diretto. Se invece parliamo di quello che afferisce al mondo del risparmio, quindi la gestione, la consulenza e tutto, di gran lunga quello che viene utilizzato è il consulente finanziario. Direi che il 95% dei clienti che hanno bisogno di essere assistiti da un punto di vista di costruzione di portafogli, esigenze di investimenti, utilizzano il promotore. Solo una parte che noi stimiamo in circa il 5% tende ad aggregare e a gestire i propri risparmi per conto proprio. A quanto è arrivata la vostra rete? In questo momento sono 2.300. So che state andando avanti a spron battuto anche con la politica di reclutamento. Ma sì, perché voglio dire, il modello di banca rete è visto anche dal nostro gruppo, il gruppo Unicredit, di cui facciamo parte, come un modello strategico, quindi un modo estremamente moderno di fare banca in futuro. Io prima, durante il convegno, spiegavo che se le banche potessero con un colpo di bacchetta magica cambiare tutto, voglio dire, vorrebbero le banche con molte meno filiali, grande intensità di tecnologia e magari una rete di distribuzione pagata il più possibile a variabile e senza costrizioni spazio-temporali, che è l'identikit del promotore. Quindi c'è una grande visione strategica da questo punto di vista e vogliamo aumentare la cilindrata della nostra azienda. Pietro Giuliani, voi che invece sopra di voi non avete nessuna banca, avete un modello diverso rispetto agli altri suoi due colleghi appunto che ospitiamo oggi, il tema della consulenza in questo momento, che cosa chiede appunto la famiglia italiana? Noi prima abbiamo fatto ragionamento legato al prodotto, la cedola, ma dal punto di vista proprio dell'attività di consulenza, cosa sta cambiando appunto per quello che riguarda la professionalità che si mette sul mercato? Diciamo che l'incertezza che viene dal mondo reale, quindi dall'ambiente esterno in cui vivono le famiglie, è talmente tanto pregnante che non si riesce più, e questo è un bene, a staccare il risparmio da quelli che sono i riflessi poi sull'economia reale. Parlavamo prima dello stacco delle cedole, che ormai è richiesto dalla quasi totalità dei risparmiatori, parlavamo prima del mantenimento del tenore di vita, che una pressione fiscale maggiore, una necessità di assistenza di parenti e di amici che quindi drena liquidità, porta sempre di più ad erodere lo stock del risparmio ed ad utilizzarlo ormai come parte importante della vita di tutti i giorni. C'è il tema, io sto aspettando che il mio Marco Lombardo dalla studio appunto di Milano mi metta in collegamento qualche ascoltatore, perché c'è chi vuole già intervenire sul tema dei costi, perché sapete bene che l'industria del risparmio gestito in questi anni è stata analizzata più volte, c'è il famoso studio di Mediobanca che ogni tanto appunto ritorna ciclicamente e che appunto enfatizza l'aspetto dei costi non chiari dell'industria del risparmio gestito. Si sta andando verso una strada di maggior trasparenza, Massimo Doris, perché ci sono anche i regolatori che ve lo chiedono, ritiene che si stia facendo, adesso lei mi dirà dal punto di vista dell'industria, sì, un lavoro soddisfacente, forse però dall'altra parte ancora un lavoro soddisfacente non viene percepito, perché? Ma io, per quanto mi riguarda, se parliamo soprattutto dei fondi comuni di investimento, che sono lo strumento principe attraverso il quale viene fatta la consulenza dei promotori finanziari, sono strumenti molto trasparenti, nei prospetti è scritto chiaramente quali sono i costi del singolo fondo. Quindi io penso che questa lamentela venga più dal fatto che non sempre le performance, quello che si ottiene, i risultati sono in linea magari con quello che si aspetta il cliente, e allora il ragionamento è: ma come? Io ho risultati scadenti e in più devo pagare tutti questi soldi. Se io dico, se un gestore potesse fare solo risultati positivi, sapesse fare solo risultati positivi, probabilmente non andrebbe a lavorare tutte le mattine, ma li farebbe per conto proprio, col proprio risparmio. Quindi un gestore bravo i risultati li porta nel medio lungo termine, non si può pensare di essere costantemente in positivo. Allora, se si vuole questo, c'è il conto di deposito, dove uno si deve accontentare di meno, lì sorprese non ce ne sono, costi normalmente non ce ne sono, perché c'è, si dichiara il tasso e finisce lì, e trova quella soluzione se teme un po' di andamento volatile. Ma per quanto riguarda la trasparenza, secondo me, perlomeno nei fondi, ce n'è molto, ma in genere un po' nei prodotti ce n'è parecchio. Si può far di più, migliorare si può sempre, per carità di Dio, ma non mi sembra questo un tema importantissimo in questo momento. Dottor Foti, lei ritiene che quello dei costi sia un tema rilevante nelle scelte di investimento individuali? O no, non lo percepisce come tale, almeno nelle famiglie che seguono i promotori della sua rete? Ma il tema dei costi io lo affronterei senza, voglio dire, il tema dei costi dell'industria, chiamiamolo, della finanza, del risparmio, non è tanto diverso dal tema dei costi di qualsiasi altro tipo di industria, nel senso che quello che è importante per il cliente non è tanto il livello assoluto del costo, ma il rapporto tra qualità e prezzo. Cioè io devo essere sicuro che a fronte di quello che pago ricevo un qualche cosa che sia adeguato. Quindi evidentemente, come giustamente Massimo Doris stava puntualizzando, vuol dire, ci sono varie modalità con cui possono essere soddisfatte le esigenze di investimento di una persona. Quindi qualcuno vuole una soluzione molto semplice, molto, molto base, non particolarmente evoluta, sofisticata, come per esempio il conto di deposito, benissimo, quello è accessibile a costi praticamente zero. È chiaro che più ci si rivolge verso soluzioni, vuol dire, complesse, sofisticate, in grado di dare grande diversificazione, quindi una prospettiva per esempio molto più globale, è chiaro che stiamo entrando in un campo qualitativamente molto più complesso e chiaramente i prezzi sono adeguati. L'importante comunque è corretto che i prezzi siano, cioè che il cliente, voglio dire, ottenga a fronte dei soldi che paga effettivamente un servizio adeguato. Non ritengono però del tutto soddisfacente ancora quello che sta facendo il mercato il nostro Ferdinando da Varese, che saluto. Buongiorno, il nostro primo ascoltatore all'800 24 00. Pronto? Sì, mi sento. Ferdinando, ci sente? Sì, io lo sento. Qua. Ci dica. Io voglio semplicemente dire che tutte quelle belle parole che dicono quei signori, ok, stanno bene, però io porto un esempio semplice. Io risparmiatore affido 100.000 euro al promotore finanziario, il promotore finanziario lo porta in banca e o in società, questi a loro volta li portano in un'altra struttura, assicurazione finanziaria quant'altro. Questa a sua volta li andrà ad allocare come investimenti, ma con i miei 100.000 euro quanta gente si guadagna? È questo il nocciolo, che poi non lo si voglia dire, va bene, è tutto un altro paio di maniche. No, glielo lasciato dire. Per inciso, 30 anni di sportello bancario, un po' di promotore finanziario e un po' di consulenza. Quindi veda un po' lei, anzi, loro signori. Ferdinando, la ringrazio. Pietro Giuliani, ma allora, se arriva Ferdinando e le consegna 100.000 euro, voi dove li portate questi soldi? Dobbiamo sapere quali sono gli obiettivi di Ferdinando, che sicuramente ce li spiega bene, visto che è un collega che ha lavorato 30 anni in banca e ha fatto anche il promotore finanziario. Credo che quello che lui dice è correttissimo, perché di fatto non si deve esagerare con il cercare di far troppi passaggi sul denaro degli altri. Questo qui lo rivolgo soprattutto alla pubblica amministrazione, che credo che magari sia un po' più pesante dell'eventuale nostra industria, di quello che fa la nostra industria. Per quello che riguarda gli obiettivi di investimento, il tempo in cui li vuole raggiungere e il livello di rischio che è disposto a sopportare, noi sulla base di questi tre dati riusciamo a dargli dei prodotti che gli servono. Allora, sentiamo anche Roberto da Cagliari, che ha una domanda per Massimo Doris. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Signor Doris, ho sentito bene la sua risposta. Volevo un semplice chiarimento. Quindi, in virtù del fatto che, così come anche in Inghilterra, sono state revocate la possibilità da parte delle società di investimento di applicare le commissioni di front, quindi lei, con la risposta che mi ha dato, praticamente voi sareste una di quelle società, così come delle altre, tranquillissimi di fronte alla possibilità eventuale che anche l'Italia si adegui a questa tipologia di investimento, esentando i vostri 4, 5, 6% di fronte che ogni tanto capita che l'investitore deve affrontare. Roberto, però lei deve fare, siccome io pretendo dai miei ospiti sempre delle risposte chiare, ci faccia anche lei una domanda chiara per farla capire magari a tutti gli altri ascoltatori. Come ha detto il collega prima, che lei... io vado dal signor Doris e gli do 25.000 euro da mettere nei fondi Bass Brand, e pago il 4% di commissione di sottoscrizione. Se domani queste fronte non esistono più, come va avanti il mio risparmio se loro non hanno più un margine di questo tipo? Che sicurezza ho io che loro riescono continuino a gestire il mio risparmio bene, avendo ovviamente un ricavo inferiore rispetto al mio risparmio? Allora Roberto, io adesso mando la nostra pausa pubblicitaria, suggerimenti per chi è in viaggio, poi cerco con i miei ospiti di tradurre a beneficio di tutte le persone che ci ascoltano appunto la sua domanda, per capire che cosa voleva intendere. Ultima parte di Salvadanaio in diretta dal Salone del Risparmio di Milano. Massimo Doris, lei ci deve tradurre la domanda che ci ha fatto l'ascoltatore, poi naturalmente la risposta sua. Allora, la domanda viene dal fatto che in Inghilterra è vietata dal 1 gennaio del 2013 qualsiasi commissione il distributore possa dare al venditore, al consulente finanziario. Il consulente finanziario può essere pagato esclusivamente con una fee di consulenza che paga direttamente il risparmiatore. Quindi praticamente diciamo che, come un avvocato, il consulente finanziario emette una fattura a fronte della consulenza che dà il cliente. E questo è il modello di consulenza low cost di cui si sta parlando in questo momento? Non è low cost, semplicemente cambia la struttura delle fee, per cui se quel prodotto ha una commissione di ingresso, parlava del 4% prima questo cliente, in un caso del genere quel 4% viene restituito al cliente, perché il cliente invece di pagare quel 4 pagherà 1, 2, 3, quello che sarà la commissione di consulenza, la paga poi non direttamente ovviamente al consulente finanziario, ma paga alla società distributrice, con la quale compensa il consulente finanziario. Quindi cambia semplicemente la struttura di come vengono pagate le commissioni. Quindi in questo caso, un domani arrivasse una normativa, un modello simile anche in Italia, anche in Italia, anche Banca Mediolanum, come anche gli altri qui al tavolo, dovranno cambiare la loro struttura di commissioni e adeguarsi e troveranno. Ma è un adeguamento che fareste volentieri? No. O subireste? Un adeguamento che io subirei. Io sono per il libero mercato, quindi già in questo mercato esiste in Italia, esistono società, tra cui anche Fineco lo fa, che fa pagare una fee di consulenza fissa in termini percentuali, indipendentemente dal prodotto venduto. Oppure c'è l'altro sistema, quello che utilizziamo noi, che utilizza la maggior parte, che con le commissioni che si pagano nel prodotto viene remunerato il consulente. Io dico che è il mercato che deve stabilire qual è il modello migliore o se sono tutti modelli buoni, e quindi l'importante è la trasparenza verso il cliente. Deve sapere, non so, da Banca Mediolanum trova prodotti Banca Mediolanum, poi noi ci avvaliamo anche di consulenti terzi, di gestori terzi, eccetera. In Fineco hanno l'architettura aperta, ci sono modelli con agenti monomandatari, come sono i nostri casi, o modelli con agenti che hanno mandato da varie case di investimento. L'importante è sapere dove si sta andando, chi è la persona che ho di fronte, come opera, che modello segue, e io cliente decido di affidarmi ad A piuttosto che a B. È il cliente che deve avere in mano questa forza, secondo me, e non il regolatore. Ha una forza di questo tipo il mercato italiano, appunto, di autogestirsi anche da solo, oppure comunque c'è questo regolatore? C'è la possibilità che, secondo lei, in Italia venga, dottor Foti, replicato questo modello inglese? Ma questo a lei piacerebbe? Questo è difficile da dire. Sicuramente la nostra è un'industria che tutta l'industria bancaria e finanziaria è pesantemente regolata, quindi questo tipo di cambiamento sarebbe auspicabile che fosse guidato dal mercato, ma probabilmente verrà guidato più dai regulators. Se venisse guidato dal mercato, secondo lei quale strada, quale percorso si potrebbe intraprendere? Ma guardi, il nostro punto di vista è abbastanza laico, nel senso che, come diceva prima Massimo Doris, Fineco già adesso propone ai clienti tutti e due i modelli, nel senso che sia il modello con le cosiddette commissioni implicite, dove quindi vengono venduti i prodotti all'interno ci sono le commissioni così, sia invece il servizio dove, voglio dire, non ci sono questo tipo di commissioni, il cliente paga una parcella, una consulenza a fianco. Devo dire che questa seconda modalità sta sempre più prendendo piede, quindi il nostro approccio è che nel momento in cui il regolatore dovesse andare in una direzione tipo quella inglese, ne prenderemo atto, non vedo grossi problemi, perché correttamente, come è stato fatto rilevare dai colleghi, comunque alla fine quello che conta è che a fronte di un servizio adeguato di qualità ci deve essere un giusto prezzo che viene riconosciuto e pagato, e che tutto sia all'insegna della massima trasparenza, sia che le commissioni siano implicite sia che siano esplicite tramite una parcella. Vorrei sentire un pensiero anche su tutto questo argomento da parte di Pietro Giuliani. Ce ne aggiungo un altro, in attesa che naturalmente intervenga il regolatore più o meno sul modello inglese, vediamo appunto se succederà nel nostro paese. È intervenuto più volte anche il legislatore lo scorso anno in Italia, imponendo una rimodulazione appunto della tassazione sui prodotti di investimento. Abbiamo avuto come ultima ciliegina sulla torta la mini patrimonialina, appunto. A quell'aspetto, secondo lei, quanto è inciso anche nella rimodulazione invece delle scelte di investimento dei vostri clienti? Beh, io direi che il cliente medio è interessato e affida dei soldi a chi si occupa di gestire i risparmi perché vuole un rendimento. Questo rendimento, al netto dei costi, deve essere il più alto possibile e il meno volatile possibile. Il costo, il come viene pagato l'intermediario, la tassazione, sono le cose che sono sintetizzate nel rendimento al netto di costi e tasse e nella sua volatilità. Se uno è in grado di dare un buon prodotto, quindi un buon rendimento, poco volatile, include già la tassazione del paese in cui opera, che speriamo non cresca troppo di più, ingloba i costi del prodotto che servono a generare la performance e la bassa volatilità di questa, e quindi io sposterei completamente l'ottica, avvicinandomi a quella del cliente. Lui ha dei soldi da parte, vorrebbe che questi soldi non solo rimanessero tali, ma possibilmente crescessero con una certa costanza nel tempo. Un'ultima battuta prima di salutarci, ho un minuto e mezzo, due minuti di tempo, ma quando voi vedete che un'asta del tesoro italiano, come quella che ha avuto un grandissimo successo due giorni fa, quella del BTP Italia, raccoglie sul mercato 16 miliardi di euro, mentre l'industria dei fondi in un mese come marzo, se non sbaglio, avrà potuto portare a casa circa 5 miliardi, adesso non mi ricordo le ultime cifre, e viene da anni di disinvestimenti costanti, continui e anche estremamente sostanziosi. Massimo Doris, vi irritate, vi dispiacete? No, nel modo più assoluto, perché il mercato è in mano soprattutto il mercato del risparmio, in mano soprattutto alle banche tradizionali, che tendono a dare questi prodotti molto più semplici, che vanno benissimo, perché nulla contro i titoli di Stato. Poi non dimentichiamo che ci sono stati molti investitori istituzionali, certo, che hanno investito. Per quanto ci riguarda, noi stiamo andando benissimo, stiamo raccogliendo bene, abbiamo raccolto nel primo trimestre 1 miliardo di euro, raccolta netta nei fondi, che significa che i clienti ci stanno dando fiducia, e io a questo guardo e di questo sono contento. Alessandro Foti? Allora, sicuramente non ci disturba assolutamente. Sono due tipi di forme di investimento completamente diverse. I fondi di investimento sono, diciamo, la parte, chiamiamola, più trasparente, più moderna e più evoluta che si possa immaginare del modo di investire i propri risparmi, e quindi sta crescendo progressivamente, quindi ci confrontiamo con un pubblico di riferimento che è completamente diverso. Il fatto che, voglio dire, c'è stato questo successo nel collocamento, sinceramente, personalmente da italiano, lo vedo con molto favore. Prendiamolo come segnale positivo, ce lo diceva anche ieri il presidente di Assogestioni. Siniscalco, 10 secondi, gliele segno anche a lei, Giuliani. Credo che sia un'ottima cosa per il sistema Italia, dove vivono i nostri clienti e dove noi operiamo in parte e quindi nessun tipo di invidia. Speriamo solo che non sia una bolla con tutta questa liquidità che c'è in circolazione garantita anche per fortuna dalle banche centrali. Salva Danaio.